Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Siamo pronti, operativi dal Groove Master Studio. Bomarsi, mi dai l'ok? Ok, siamo pronti. Funziona tutto, il segnale è buono. Tutto. Bene, qui dal Groove Master Studio, buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo per il soundcheck, la prova del suono di Radio 24, appuntamento del sabato, appuntamento che vede presente nel nostro studio ancora una volta il nostro giornalista Francesco Tromba. Buonasera e bentornato. Buonasera a tutti. Come va? Bene, bene. Sei contento? Ti ho presentato due amici fantastici. Sì, due personaggi veramente interessanti. E come sono? Perché tu hai la tua classifica, personaggi, personaggioni o oppure qual era il terzo? Idolo, no, devono diventare degli idoli ancora per sì. Te. Quindi sono dei personaggioni. Dei personaggioni, vado a introdurre i personaggioni che poi sono dei formidabili artisti, compositori, musicisti, vocalist, non saprei più che altro dire, fatto sta che amano la musica, vivono di musica ed è quello che fanno quotidianamente, masticano musica e oggi parleremo di musica. Potremmo in qualche modo, Francesco, creare un ponte fra lo studio della vocalità, i ritmi esotici, i viaggi, il reggae, quasi un ponte fra i Bob, da Bobby McFerrin a Bob Marley, perché protagonisti della nostra puntata sono il vocalist pluripremiato Albert Hera, lo vado a introdurre. Ciao Albert, ciao, ben arrivato. Ciao, e il mio amico Mariano Caiano, che io voglio ringraziare ancora una volta, perché se ho scoperto più a fondo la bellezza del reggae di Bob Marley, lo devo a lui, mi ha dato proprio ripetizioni private. Ti ringrazio. grazie, buonasera a tutti. No, grazie a voi per essere venuti. Oggi parleremo di tante cose, sono felice di ospitarvi per vari motivi. Intanto perché provo per voi un grandissimo affetto. È la prima volta che vi incontrate, no? Sì. Un incontro bello, positivo. Buono. Sì, positivo. Vediamo, magari succede qualcosa anche di artisticamente interessante per il futuro, non si sa mai. Chissà. Allora, io vorrei iniziare con Albert, salutare Albert Hera, che ormai è riconosciuto in Italia e nel mondo come uno studioso, uno specialista di vocalità, anzi quasi un maniaco compulsivo della vocalità, è vero? Maniaco. Più che compulsivo, maniaco. Sì, proprio maniaco. Sì, proprio. Tu ti svegli la mattina e inizi e a gongheggiare subito, sì, no? Subito. Passione che però è nata, cioè è nata prima la passione per la musica, sì. Tu sei avvicinato alla musica come sassofonista, e sì. Poi da sassofonista, da musicista, hai capito che invece il tuo strumento poteva diventare la voce. Mi ha dato la possibilità, più che altro, di potermi esprimere in un altro modo. Ma come ci sei arrivato? Ci sono arrivato semplicemente con un obbligo, cioè sono stato obbligato a cantare, passando da dei cori a essere poi solista. E ho fatto tutta la gavetta del io lo chiamo comunque musicista da intrattenimento, ok? Fino a un certo punto che ho abbandonato questa linea per dedicarmi interamente alla sperimentazione e alla ricerca. Sì. Infatti nella presentazione che ti viene fatta dicono: Albert Hera non è solo un cantante, è un narratore di suoni che evocano luoghi, profumi, sapori, danze e genti lontane, intrecciati in trame musicali, eccetera. Yes. Cioè tu fai tutto questo con l'utilizzo solo della tua voce. Sì, ho deciso di non cantare parole, ma solamente suoni. Che è un po' quello che faccio io. Siamo un troppo... Però le nostre tecniche, noi ci vogliamo bene, ci conosciamo, e quante volte abbiamo collaborato, Albert, no? E abbiamo collaborato più volte anche in contesti utili da un punto di vista sociale. L'ultima volta che ci siamo incontrati e abbiamo fatto qualcosa insieme è stato proprio per un convegno dedicato alla balbuzia, no? Ai bambini balbuzienti, e ci siamo divertiti moltissimo parlando del protolinguaggio, ovvero qualcosa che non ha senso, il nonsense, è qualcosa che nasce da noi e che ci permette di esprimere quello che penso che sia la vera musica, cioè il voler tutto sommato esprimerci con dei suoni, esclusivamente con dei suoni, per lasciare a tutti un qualcosa di unico e non sì. magari come può essere magari una parola. Abbiamo parlato del protolinguaggio, ovvero il la lingua dell'uomo primitivo fatta di, yes. di fonemi, e i bambini si sono molto divertiti, e anche noi, ed è una cosa che replicheremo ma racconteremo dopo l'appuntamento. Invece io vorrei iniziare con la musica. Mariano, aspetta, non ti preoccupare, poi lo apro io, dammi la soddisfazione. Ah, Mariano mi voleva levare vedevo. Dalle mani il suo CD e levarmi la soddisfazione ecco. di scartarlo, che invece la cosa è più bella, gioia, gioia scartare. No, guardi, io ti faccio i complimenti, a me è piaciuto molto. Adesso grazie. Ho la possibilità di sentirlo anche fra le mani fisicamente, perché ho sentito tutto il reparto digitale. Sì, sì. Ma prima di parlare del tuo disco, io vorrei farlo ascoltare. Certo. Posso? Come no? Si intitola Stamma Così. Che non è male, cioè nel senso, cioè, stiamo così. Così stiamo Mariano così. Caiano al soundcheck di Radio 24. Mariano Caiano al soundcheck di Radio 24, album appena sfornato, si intitola Stamma Così, naturalmente in lingua napoletana, sì, sì. pura è questa, brano intitolato Iennopo Quartiere, sì. Il quartiere esattamente qual è? Quartiere San Martino, quartiere Vomeron. Che è il quartiere dove tu sei nato e cresciuto. 50 anni fa, c'è gente. Mamma mia. Dopo tanti anni ho sentito proprio questo bisogno di dedicare un qualcosa al mio quartiere, che veramente mi ha dato tanto, tanto, tanto, tanto. Allora, il tuo background, come dicevo all'inizio della puntata, è giamaicano. Tu ci sei stato in Giamaica. Ci ho fatto scalo a Kingston. Solo scalo. Però mi sono nutrito di video, ma soprattutto di musica, Gigi. Quindi attraverso la musica ho avuto modo di godere di queste bidonville di Kingston, Rodertal, Sant'Anna. Perché tu, lo vorrei dire agli amici di Radio 24, non sei soltanto un appassionato musica in generale, ma un conoscitore di reggae, di Bob Marley, di tutte le storie degli artisti di ieri e di oggi, ma tu sei proprio un credente, cioè tu hai proprio come religione il reggae, il ragamuffin. È proprio una realtà di vita che vivi tutti i giorni sulla tua pelle, e quindi la esterni poi attraverso la musica. Attenzione, vorrei fare una precisazione, no? Perché quando si parla di Bob Marley, di ragamuffin, di Giamaica, reggae, si arriva subito al cannone gigantesco. Esatto. Invece Mariano non beve e non fuma, sono come Muta Baruca, capito, che non toccano anche la gancia. Va bene, allora almeno. Senti, tanto per tornare alla musica, e poi naturalmente ci racconteremo e andremo a vedere tutte le vostre esperienze, vedremo dove ci porterà il cuore anche oggi. Vorrei andare a Bob Marley e presentare qui al soundcheck di Radio 24 un brano che tu senz'altro conosci, che puoi presentare molto meglio di me. Si intitola Rastaman Live Up. Bellissimo, un brano tratto dall'album Confrontation, che è stato il primo inedito, il primo album ad essere pubblicato dopo la morte del grande Bob Marley, venuto nell'81. Soundcheck, il suono della musica, di Gigi Telesforo. Brano intitolato Solos, esattamente come l'album prodotto, realizzato dal nostro Albert Era, vocalist italiano presente nel Groovemaster Studio di Radio 24, per parlarci della sua passione per la voce, ma anche per raccontarci questa nuova esperienza discografica. Io ho ricevuto il tuo album, naturalmente credo di essere stato uno dei primi, me l'hai spedito appena pubblicato più o meno un anno fa, e oggi finalmente ci ritroviamo qui al soundcheck di Radio 24 per parlare proprio del tuo percorso artistico. Tu hai registrato diverse cose, però finalmente ti sei chiuso in studio da solo, che è quello che poi fai anche dal vivo, una performance solitaria con l'aiuto di aggeggi elettronici che ti porti dietro. Yes. Solos è diciamo un racconto dedicato alla solitudine. Quanto per me è stata importante la solitudine per poter comporre e per poter essere probabilmente quello che sono. Solos è praticamente la chiusura di un progetto, che è ritrovare un'altra persona sola per poter condividere questa vita, che è la persona che in questo momento è vicino a me. Quindi in questo... Che non è Mariano. No, praticamente la costruzione di questo progetto ha... È stata molto lunga, perché ci sono voluti quasi 5 anni per costruire questo progetto. E ho avuto anche la fortuna di avere all'interno di questo CD due persone, due cari amici, che sono Fabio Giacchino e Gianni De Nitto, che hanno contribuito con la loro energia, con la loro musica, a dare una certa particolarità in determinati brani all'interno di questo CD. Senti, quando tu ti esibisci dal vivo, stavo dicendo, porti con te un reparto di macchine. Di macchine, sì. Ecco, famose. Elettronica. Elettroniche, sì. Loop station, reverberi, vari aggeggi che comunque utilizzi con grandissima padronanza, ecco, grande facilità, dai vita anche a delle soluzioni sonore sorprendenti dal vivo. Mm-hmm. Voglio anticipare che hai portato tutto questo marchingegno anche qui nel nostro studio, e che il nostro Riccardo Bomarzi sta settando nel migliore dei modi, perché poi più tardi ci farai sentire qualcosa dal vivo, no? Certamente. Io quest'anno ho fatto un grande sforzo insieme a Bomarzi, quello di dare la possibilità agli artisti anche di potersi esibire dal vivo. Mi sembra una cosa, insomma, ti ringrazio, carina, no? Tu sei questo. Operativo, no? Lo fai volentieri anche Mariano, tu c'è una chitarra, ce l'abbiamo, quindi se vuoi fare un pezzettino con la chitarra, certo, dopo lo facciamo. Prima di ascoltare Bobby McFerrin, del quale vorrei parlare, perché tu sei forse uno dei pochi vocalist italiani che ha avuto la fortuna di collaborare in un ensemble accreditato come quello creato da Bobby McFerrin anni fa, e partecipare a uno dei dischi secondo me più importanti e interessanti per gli amanti della vocalità, che è Vocabularies di Bobby McFerrin. Mm-hmm. Un album costruito solo ed esclusivamente con l'utilizzo di voci, perché quanti cantanti hanno partecipato? 50 fra i migliori vocalist del mondo, ed è un album dove non si usano lingue accreditate, ma soltanto fonemi ispirati a varie regioni del globo terracchio, giusto? Sì, è stata un'esperienza unica, è un'esperienza che mi ha segnato tantissimo. Anche a me. No, anche a me, perché l'ho sentito il disco più volte, mi ha fatto La difficoltà nell'incidere è stata notevole. Ho passato un mese a New York per poter incidere questi 4 brani, di cui naturalmente ha come concept gli arrangiamenti di Roger Trisk, che vorrei citare. Roger Trisk, che meraviglia di musicista, cantante, arrangiatore, eccezionale producer in studio di registrazione. Vorrei puntualizzare una cosa. Sì, fallo velocemente. Alex Acuña. C'è pure Alex Acuña. Yes. Ah, eccezionale. Allora, Mariano, faccio ascoltare a tutti voi Tromba, ascolta questo brano. Il brano si intitola The Garden, tratto da Vocabularies di Bobby McFerrin, con tutti quei cantanti. Che meraviglia, bravo Albert, ti voglio bene. Questo è il soundcheck di Radio 24. Soundcheck di Gegè Telesforo. Tu sei il mio maestro di reggae, dai, fai tu la presentazione. Formidabile questo brano. Abbiamo ascoltato Running Away, tratto dall'album Kaya del 1978, guarda, un capolavoro. Hai visto? Visto Caiano come è preparato? Un'enciclopedia su Bob Marley. non solo, io un giorno viaggiamo, perché abbiamo fatto molti viaggi insieme. Perché abbiamo fatto molti viaggi insieme tu e io, Marianne? Beh, perché abbiamo condiviso il palco per un bel po' di anni insieme a Zio Renzo, e non solo. Insomma, insieme a Renzo Arbore abbiamo fatto Renzo, sì, che per tutti è zio. Io lo devo sempre precisare che non abbiamo un grado di parentela, però per tutti noi è zio Renzo. Sì, perché, zio Renzo. Che è il grande maestro. Abbiamo fatto tanti concerti in Italia, tantissimi, ma anche tantissimi in giro per il mondo insieme a Mariano. E quindi, viaggiando con Mariano, ho detto: Mariano, tu mi devi spiegare qualcosa di questa tua passione per il reggae, perché... E naturalmente i racconti non finivano mai, perché lui è partito proprio dalle origini, tutta la filosofia religiosa. Hai capito dietro c'è un movimento religioso o no? Eh sì, certo, però l'unica cosa che manca sono i capelli, in questo caso di Mariano. Nel caso di Mariano. Nel caso di Mariano, i dreadlock. Certo che cattivone. Tu proprio calabrese devi andare proprio, hai capito? Vabbè, it's true, è la verità. Senti, che poi tutta la cultura reggae e Bob Marley in modo particolare sono stati molto importanti anche nella evoluzione artistica di Napoli, città che da un punto di vista musicale è molto legata al reggae, a Bob Marley, sì, ancora certo, oggi. Cioè, molto, molto, vero. Sono tanti i gruppi che propongono reggae, insomma, e fanno belle cose. Abbiamo l'esempio, per esempio, degli Alma Megretta, che sono una bella formazione, così come ci sono state degli Accenni Reggae per 99 Posse e tante altre formazioni. Quindi. Ecco, che poi tu hai lavorato con tutte queste band. Sai che sì, lui aveva un nome d'arte, ancora lo chiamano così gli amici, lo chiamano Hobo. Hobo. Oh, perché Hobo? Da dove? Hobo è vagabondo, però il mio era un vagabondare spirituale, capito? Oh. Non perché salissi sul pullman senza pagare il biglietto. Che Hobo, praticamente la figura dell'Hobo è una figura che nasce in America, negli anni 20, anni 30, erano quelli che viaggiavano sui caboose, sui carri merce con la chitarra, la mappatella, praticamente la busta con i vestiti, quel poco di indispensabile, e si girava l'America. Quindi un vagabondare spirituale è stato il mio. Senti, tu hai lavorato anche tantissimo per molti artisti del circuito napoletano. Quali sono stati quelli che in qualche modo hanno influito anche poi in seguito sulle tue scelte, dai quali hai imparato qualcosa? Beh, sicuramente Tony Esposito, al quale devo tanto, perché è stato un maestro, oltre che di ricerca sonora per quello che riguarda la percussione, è proprio stata una ricerca della melodia, no? Visto che lui comunque, Tony, ha sempre spaziato dall'Asia all'Africa principalmente, insomma, approdando comunque in ogni caso sempre a Napoli, perché poi si torna sempre a Napoli. Perché tu sei anche un abile percussionista. Me la cavicchio. Gente. Come percussionista, qual è il mondo che ti interessa? Beh, guarda, negli ultimi tempi mi ha affascinato e mi affascina ancora oggi il mondo asiatico, insomma, la ricerca della musica indiana, quella che viene definita classica, sai, dove ci sta il suono delle tablas, il sitar, la vina, insomma, mi piace molto Ravi Shankar, ascolto molto, quindi attingo molto anche dalla... Sono delle linee melodiche molto particolari, anche le scomposizioni ritmiche sono abbastanza... Sì, poi noi abbiamo lavorato a lungo con un grande maestro di percussioni che è il nostro amico Peppe Sannino. Peppe Sannino, lo salutiamo. Il mio maestro. Tra l'altro mi ha mandato anche il metodo che ha appena pubblicato, sì. Fantastico, sì, quindi sì. Ringrazio Peppe Sannino, anzi spero che prima o poi possa venire col suo ensemble di percussioni qui nel Groovemaster Studio, certo. E fare qualcosa dal vivo anche per noi. Mi avrà piacere sicuramente. Allora, io vi vorrei far ascoltare un'altra band che è nata come cover band di Bob Marley e poi hanno iniziato a scrivere la loro musica, sono neozelandesi e Tromba, noi lo diciamo sempre, che è una delle nostre band preferite, che sono i Fat Freddy's Drop. Conosci anche tu, Mariano? Favolosi. Favolosi. Il brano si intitola 10 Feet Tall, poi facciamo una pausa perché arriva l'informazione in Radio 24 e poi di nuovo collegati con il Groovemaster Studio per la seconda parte del Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Seconda parte del Soundcheck di Radio 24, qui dal Groovemaster Studio, oggi in compagnia di amici, naturalmente Riccardo Bomarzi, Francesco Tromba. Stai sempre smanettando sul telefonino, no? Eh sì, perché bisogna essere sempre connessi. Connessi. Ai social. Che sta venendo fuori dal mondo di internet? Sta avvenendo un bel movimento di seguaci del Soundcheck. Ma scusa, questi signori sono molto seguiti. Voi avete comunicato la vostra partecipazione al Soundcheck, ne parlo con i miei ospiti, sono Albertera e Mariano Caiano, l'avete fatto, no? Certo. Infatti stanno arrivando messaggi anche per voi. Ah, e allora Albert, scusami, dimmi. Fra un po' ci sarà questo convegno attesissimo, ormai siamo arrivati all'11ª edizione della Voce Artistica, sì. Convegno che si tiene ogni anno a Ravenna, dedicato alla voce proprio quella dei cantanti, quella di chi utilizza questo strumento meraviglioso, e il tutto ruota però intorno alla figura professionale di un foniatra ormai di fama mondiale, che è il nostro amico Franco Fussi. Sì. Esattamente quest'anno su cosa vi concentrerete? Ti dico vi concentrerete perché tu fai parte ormai dell'organizzazione, no? Beh, quello che ho cercato di portare quest'anno è il connubio e far conoscere tutta l'area propriamente asiatica, ma specialmente l'India. Quindi ci saranno due grandi artisti dall'India, giovanissimi, youtuber, quindi che porteranno la loro diciamo modo di concepire o il Konakolle insieme alla Yuma Beatbox o lo Skat insieme al modo di gestire le sillabe nell'ambito della musicalità indiana. Dei mantra indiani. Poi ci saranno tantissimi artisti di cui Giustamente ci sarà anche il grande Gegè. Grazie. No, quest'anno poi partecipo dopo anni. Io ci sono stato anni fa e mi divertì tantissimo. Facciamo proprio una cosa insieme dedicata alla beatbox. Invece quest'anno porto con me un'altra formidabile vocalist italiana, una forse la più accreditata cantante di jazz del nostro paese, certo, che è la mia amica Maria Pia De Vito. E con Maria Pia De Vito abbiamo pensato di regalare agli ospiti della voce artistica di questa edizione a Ravenna, vogliamo dire le date? Quando dal 26 al 29 ottobre. Ecco, in uno degli appuntamenti parleremo proprio della evoluzione della vocalità, partendo proprio dal nostro amato protolinguaggio primitivo, fino alla improvvisazione vocale, detta skit, e quindi all'utilizzo delle sillabe per improvvisare intonate. No? Yes. Faremo questo. Grazie che ci sarai. No, figurati, è un piacere, ci divertiremo sicuramente. Naturalmente andremo ad improvvisare. Senti, ma tu mi stavi parlando, vedo anche Mariano interessato, proprio perché in questo momento mi sembra particolarmente vicino al mondo indiano, lo dicevi prima, il suono, no? Mi potresti simulare, Albert, qualche pattern ritmico proprio tipico della musica indiana? No, così al volo, che cosa, come sarebbe? Non ti senti indiano, tromba, vedi? Sono partiti, questi non li stacchi più. Se partono, vanno. No, ma dopo lo facciamo, dopo ci divertiamo a fare qualcosa insieme. Invece torniamo a Stamma Cussì, Mariano Caiano. Ah, il brano che voglio far sentire, Mariano, è bellissimo. Io ho visto il video, divertentissimo. Dove l'hai girato il video di Mama Cuba? Il video è stato girato a Napoli, ovviamente, e la regia è stata firmata da Enrico La Guardia, un carissimo amico, un grande regista. E niente, praticamente questo video rispecchia praticamente questo è un parallelo più che altro tra Napoli e L'Avana. Cioè, alla fine, come dice la canzone, nonostante le difficoltà che sono all'ordine del quotidiano, comunque il napoletano, come il cubano, è sempre pronto a sorridere. Io, guarda, a me è piaciuto tanto l'album proprio perché sei tu al 100%, con tutti i viaggi che hai fatto, tutte le spezie che hai mangiato, cioè c'è di tutto, sì. No, dal Maghreb a Cuba, da Cuba, Napoli all'Argentina, perché c'è anche un brano New Tango, insomma. È una bella, è stato un bel viaggio, ecco, un viaggio fatto di note. Tra l'altro, se posso dirla questa cosa, ci terrei tanto, e tra l'altro ci hanno suonato veramente dei musicisti veramente, di cui, oltre ad avere una grande stima a livello umano, proprio una stima proprio professionale, Massimo Volpe, che mi ha aiutato negli arrangiamenti, sai, il nostro amico carissimo Massimo Volpe, Roberto Giangrandi al contrabbasso, batterista Valerio Lotito, che è veramente una promessa, e Dario Zema le percussioni, insomma, giusto per citarne alcuni, andrebbero, meriterebbero di essere citati tutti quanti, però insomma la lista è abbastanza lunga, perché questo è un EP di 5 tracce, pensa un po', 5 tracce, hanno suonato 4 bassisti, quindi un grande lavoro. Mastro Berti, Rocco Mastro Berti al basso, insomma, per un brano reggae. EP suona molto bene. Stamma Cussì il titolo, sì. Mariano Caiano in Mamma Cuba, al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Non capisco che stai scrivendo da quando ho iniziato il programma, che scrivi? In realtà adesso stavo leggendo, non stavo scrivendo, perché stavo leggendo che Albert farà parte dei TED Talks e farà questo speech a Milano, quindi volevo chiedergli un attimo su che cosa verte questo speech. Il mio speech sarà il nuovo concept che porterò in giro, che si chiamerà The Sound Teller, cioè cercherò di raccontare la mia vita solamente con i suoni, e in quei 15 minuti affronterò proprio uno speaking solo di suoni, dove racconterò la mia vita partendo dalla nascita fino all'ipotetica morte in 15 minuti. Cioè il suono della nascita attraverso la vocalità, la voce. E raccontare la mia vita. Io sono curioso, anticipa qualcosa, fammi sentire qualcosa. Faccio l'esempio. Cioè, quando sei nato... Come si nasce? Questo è il battito del... Yeah. qua, per esempio, è il respiro, l'importanza del respiro. Fammi sentire il tuo, tromba. Non sono in grado di fare. Per esempio, questo è il concetto non di uscire fuori dai quattro, dal sistema dei quattro, andare in un sistema in cinque come funzione ritmica. Affronterò vari temi del timing in sette, in nove, all'interno proprio di 15 minuti, ecco, non solo esclusivamente in quattro. Ecco. Senti, ma volevo chiedere a Riccardo Bomarzi se ha montato tutte le attrezzature di Albertera. Siamo pronti. Possiamo fare. Allora, aspetta, Albert, sì. prima di, vedo che sei partito subito, perché ti scappa proprio la vocalità, ti scappa. Senti, no, che cosa ci puoi proporre? Beh, io adesso farò un brano esclusivamente improvvisato. Sì. Ci puoi raccontare che strumenti utilizzi? Guarda, qua ho un set piccolo. Un ovvero... RC505 della Bosch, una Loop Station. La Bosch. Roland 505. Cioè, che cos'è una Loop Station? Una Loop Station, una 5 tracce. Possiamo spiegare agli amici che cos'è una Loop Station? Sovraincido le tracce e In tempo reale. Okay. Quindi lui canta un pattern ritmico, quello che è, e praticamente lo registra al volo e lo fa. E riparte da solo. Ok, poi c'ho un'altra macchinetta che è l'iPad con un software, un'applicazione interna che è Launchpad, dove naturalmente lavoro con i ritmi, i suoni, accordi, eccetera, eccetera. Va bene. Già presettate. Questo è quello che ho. Va bene, come intitoliamo questa performance improvvisata? Jam. Allora, Albert, ti puoi posizionare. Io direi a questo punto di presentare Albert Era dal vivo qui nel Groovemaster Studio per il Soundcheck di Radio 24. Un brano assolutamente improvvisato, si intitola Jam. Vai, Albert. Grazie per la dedica, grazie. Performance favolosa, Mariano? Cioè, sono rimasto così, proprio completamente incantato, rapito. Pensa che Albert Era fa questo veramente dal vivo in teatri, oltre che i convegni, tutte le cose che fa nei teatri, veramente. Fa una performance molto più consistente che dura 3-4 giorni. 60 minuti. 60 minuti di performance sul palcoscenico. Poi voglio dire, noi facciamo questa cosa perché anch'io utilizzavo le macchinette come fai tu molti anni fa. Dovrei ricominciare perché adesso la tecnologia è andata avanti, quindi si possono fare cose strepitose come quelle che hai proposto tu dal vivo qui nel Groovemaster Studio, ma come vedi Jacob Collier, il ragazzo, ne ha fatto proprio un vero e proprio spettacolo e sta girando il mondo. Forse dovresti farlo anche tu. Ma guarda, io per l'elettronica sono appassionato all'elettronica, però cerco di usarla il meno possibile. Il giusto. Anche gli spettacoli hanno non uso per esempio main stage come set, ma uso le macchine singolarmente. Preferisco avere macchine singole, uso una Maskin Jam per esempio della Native Instrument per altre situazioni step e poi dialogo molto con il pubblico. Quindi nel senso che tu avresti potuto senz'altro creare una programmazione a casa e presentarti sul palco, utilizzare cose preconfezionate, invece tutto è espresso, è fatto lì al minuto e quindi coinvolgendo anche il pubblico che si diverte moltissimo. Questo è, penso che sia anche il punto perché faccio musica. Senti, c'è un sito di riferimento per ascoltare le tue cose, seguire il tuo lavoro? Su Spotify c'è i miei ultimi due CD e poi naturalmente c'è il mio sito internet che è www.albertera.com e poi i social, naturalmente nei social, Facebook, Twitter, eccetera. La libertà della voce, non c'è cosa più bella. E allora io tornerei a Bobby McFerrin, il brano è favoloso, scritto da Bobby McFerrin e Russell Ferrante diversi anni fa, il brano è bellissimo, Freedom is a Voice. Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, tanti messaggi stanno arrivando, il tromba me ne ha segnalato uno molto carino per Albert Era, ma Albert Era è un mostro? Cioè, punto interrogativo, da quale punto di vista? Spero non facciale. No. Albert Era è un grande artista, è Mariano Caiano. Io conosco bene il tuo lavoro, Mariano, la tua arte, e la cosa che mi ha sempre colpito è proprio la passione che tu hai per la musica, per la Giamaica, per il reggae, per i ritmi latini, per le contaminazioni, che si ritrovano poi in questo album che hai realizzato, potrei dirlo quasi a quattro mani, con Chris LaPolla, che è stato molto importante, eccellente producer, chitarrista. Un grande chitarrista, una gran bella persona, e soprattutto ha curato il sound, quello che a te è piaciuto tanto. Il sound mi è piaciuto Chris tantissimo. LaPolla, veramente una bella realtà. Senti, però devo dire che c'è senz'altro una maturazione, la copertina è tutto un programma, tromba, guarda, che vedi in copertina? Non poteva mancare il Vesuvio. Vesuvio non poteva, c'è il mare del Golfo di Napoli e ci sta anche una bottiglia, soltanto che dentro la bottiglia chiusa un bel tappo di sughero, non c'è una barchetta o un messaggio, c'è proprio Pulcinella. Pulcinella, sì. In realtà stamma così, alla fine questa è, insomma, cosa voglio dire, cosa ho voluto dire con questa copertina, che nonostante comunque ci sia la trasparenza, cioè riusciamo a vedere quello che accade fuori, il più delle volte comunque siamo imbottigliati, forse probabilmente stesso in noi stessi ci chiudiamo, quindi hai capito, un po' stare dentro chiusi e non poter neanche urlare, perché comunque nessuno ti sente perché stai chiuso lì in quella bottiglia. Beh, ma te ti farei ascoltare con questo album e anche con questa canzone che ci vorrei suonare adesso, no? Lo ha fatto Albert, anche tu. Certo. Bomarzi, cerchiamo di posizionare i microfoni con la chitarra, in modo che Mariano, siamo velocissimi. Senti Mariano, però ti posso chiedere una cosa, mi fai qualcosa del periodo Hobo? Ma sicuramente, dai, tirerò fuori un... No, perché tanto il disco adesso, poi insomma abbiamo ascoltato qualcosa, fammi qualcosa... Dai, ci provo, dai. No? Magari puoi fare qualcosa di reggae? Sì, facciamo qualcosa di reggae, magari un dancehall, mi accompagni magari al tamburo, perché è importante. Serve un accompagnamento da bongo man. Marzi, dammi una percussione qualsiasi. Una percussione qualsiasi. Pulsazione ritmica. Come si chiama il brano? Ma il brano si chiama Ecco chi ti parla, è un brano che ho scritto un bel po' di anni fa, sì, e sono felice di rispolverarlo, almeno accennarlo per l'occasione. Passa la chitarra, dai, ecco qua, sì, così come questa qua. Eccolo qua, grande, bongo man. Magrebina, però andiamo in Giamaica. La facciamo suonare in Giamaica. Va bene, Mariano Caiano dal vivo al soundcheck di Radio 24. Grazie, per te Gegè. Grazie. Dai, ci divertiamo, vai. Ci sei? Ci sono, I'm ready to start. Burn out. Yeah. Rastafari. No. Mariano Caiano dal vivo. Mariano, io mi voglio scusare, la percussione magrebina non era poi adatta al reggae, però insomma il tamburo era magrebino, però comunque hai fatto proprio da bongo man, proprio made in Jamaica. Ottimo. Non vorrei aver rovinato la performance. Assolutamente no, anzi. Però ti ringrazio perché ci hai riportato indietro di quanti anni con questa canzone. Almeno 11 anni, Gegè. Almeno 11 anni. E ho riconosciuto anche il rap in napoletano, perché spesso lo proponevi durante i concerti con Renzo Arbore in giro per il mondo. Quando io facevo il mio ragamuffin onomatopeico, il finto giamaicano, vedo Albert interessato, no? Perché il finto giamaicano è interessante, Albert, cazzo, no? Finto giamaicano. Tu che non parli lingue riconosciute universalmente, ma soltanto fonemi, no? Ragamuffin giamaicano. Ragamuffin giamaicano. Finto. È lo skate, per esempio, ecco, anche questa cosa dello skate, io mi sono concentrato in un periodo della mia vita a proporre skate dialettale. Tipo? Nel senso che, siccome lo skate utilizza dei fonemi e una sillabazione intonata, a un certo punto pensavo che si poteva renderlo regionale. Per esempio, noi che abbiamo fonemi diversi a seconda delle varie regioni, allora a seconda dei posti dove ci trovo, proprio nel periodo con Renzo Arbore, no? Viaggiando in macchina, sai, viaggi infiniti, Mariano, non sai più che cosa ti devi inventare per passare il tempo, quindi fra le varie stupidaggini. Verissimo. Ci divertiamo con Renzo, mi chiedeva, ma perché non fai lo skate in bolognese, in napoletano, in torinese? Quindi a seconda delle regioni dove andavamo, io facevo lo skate in napoletano. anche qui potresti concentrarti su sì, questa cosa, tipo il ne piemontese invece so, del didu fare nene didu lo faceva la Fitzgerald, lo faceva lo schetto utilizzando molto come sillaba invece noi lettera D. Piemontese abbiamo il ne questo è un altro studio che potremmo fare, dai, schet dialettale, lo schet come lo potremmo battezzare? Poi ci pensiamo, magari dopo possiamo tentare qualcosa insieme. Sì, allora, sì, facciamo una cosa, ascoltiamo un'altra cosa, Riccardo, dall'album di Albert Era intitolato Solo. C'è un brano che a me piace molto, Albert. Sì. Ti dico qual è, e così chiedo anche a Bomarzi di metterlo subito in onda. Il brano è quello che si intitola Jewel, ovvero la traccia numero 7. Bomarzi, la traccia 7, Jewel, Albert Era. Posso dire poi il tuo nome? Sì, tu sei Alberto Quarello. Quarello, Alberto Quarello è diventato Albert Era. Sì. E Anthony Panebianco cosa ha fatto? Ha arrangiato tutto. Ha arrangiato tutto il disco a livello elettronico, suoni, eccetera, eccetera. Mi ha dato una grande mano e lo devo ringraziare tantissimo. Grazie, Anthony. Soundcheck, il suono della musica. Eccoci, siamo qui dal Groove Master Studio, Albert Era, Mariano Caiano, Francesco Tromba, Riccardo Bomarzi, Giorgio Telesforo. Siamo praticamente ai saluti, siamo in chiusura, abbiamo parlato di tante cose. Intanto questo convegno della voce artistica che ritorna, 11ª edizione a Ravenna, quando? Dal 26 al 29 ottobre. Possono partecipare tutti? Tutti, indistintamente. Dimmi. No, scusami. Da insegnanti di canto a cantanti, a operatori del settore, da fognatri, logopedisti, eccetera, eccetera. E quindi come si fa? C'è il sito di riferimento? Basta andare su www.lavoceartistica.it e iscriversi al convegno. Ci saremo tutti. Mariano, dovresti venire anche e viene, Mariano. Spero di esserci davvero. Anche perché ci stanno questi giovani, tu che sei interessato alla musica indiana, ci stanno questi due. Perché youtuber, dicevi? Perché sono diventati famosi grazie proprio ai video. Che l'hanno portati comunque a farci conoscere questo mondo di intreccio e di contaminazione. Sì, io volevo fare una domanda a entrambi. Nella vostra musica c'è anche tanta ricerca, diciamo, etnomusicologica, quindi vi volevo chiedere dal vostro punto di vista qual è la regione italiana più interessante da questo punto di vista proprio. Interessante per me, nell'ambito della ricerca antropologica vocale italiana, c'è tutta l'area dell'est, quindi Friuli, di cui ci sono anche tantissimi rapper che cantano in friulano, e poi tutta l'area della Taranta, quindi quella zona Salento. Sì, il Salento, che ritengo molto interessante sotto il profilo italiano. Vabbè, a Mariano potrei darla io la risposta, quello è napoletano. Esatto, sarò di parte, ma è la Campania sicuramente. Napoli. Con questo bagaglio culturale di stratificato, tra l'altro, no? Sì, la redominazione. Certo. Poi cose, si sentono tutti proprio gli odori, i profumi anche della cucina napoletana, no? Dalla musica napoletana viene fuori anche quello. È vero. Dalla tazzulella e caffè, no? Sì. Cantata da Pino Daniele fino al ragù, le vongole, le cozze, va, la pizza. È una poesia. Sentite, vogliamo fare qualcosa per chiudere, cioè cercare di fare una sorta di jam vocale in chiusura, tanto per divertirci, anche perché così scaldo anch'io i motori. Ok. Che possiamo fare? Vediamo che viene fuori. Io direi di far partire Albert Era, che è sempre pronto, non se lo lascia dire due volte. Vedete, vediamo che viene. Sulle basse frequenze qui, Senti, allora Mariano, lui va, tanto come vedi è già in estasi. Sì. Noi potremmo anche uscire dallo studio, se torniamo fra due ore sta ancora facendo formidabile. È quello, Albert Era, è così. Okay. Allora vado io ritmicamente, faccio una batteria, una beatbox, no? Okay. E te che ci puoi fare? Ma io posso fare dei vocalizzi etnici, africani, napoletani, afro-napoletani, dai. Bene, vi salutiamo, siamo entrati in un mondo proprio proprio di vocalizzi. Continuate perché mi piace questa cosa. Adesso faccio partire qualcosa, saluto il pubblico, saluto gli amici e noi invece restiamo qua altri 6-7 giorni a fare questa cosa. Che mi... Guardate Albert Era, ma c'ha una concentrazione, ma non lo schiodi proprio, eh? No. Bene, grazie a tutti voi, grazie a Riccardo Bomarzi, Francesco Tromba, Mariano Caiano, grazie Mariano, grazie Albert, ti voglio bene. Vabbè, andiamo a cenare, ragazzi. Così certo. Vabbè, andiamo a cenare. Noi ci risentiamo domani 19:15, sempre qui su Radio 24. Questo è il Soundcheck.